bisogna sventrare l'angolo. Efficace la frase. Voi non lo conoscevate, volevo dei preti, se vendere di Napoli. Avevate torto, perché voi siete il governo, e il governo deve sapere tutto. Non sono fatti per il governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti, con intenzioni letterarie, che parlano della vera calcio, del mare glauco, del cielo cobalto, delle signore incantevoli, dei vapori violetti del tramonto. Tutta questa retorichetta a base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e oggi continuiamo a fare a mente, onorevole, inginocchiatevi in mente innanzi alla patria che soffre. Tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata per racconti di miseria. Ma il governo doveva sapere l'altra parte. Il governo a cui arriva la statistica della mortalità è quella dei diritti. Il governo a cui arrivano i rapporti dei prefetti, dei questori, degli ispettori di polizia, dei delegati. Il governo a cui arrivano i rapporti dei direttori delle carceri. Il governo che sa tutto. Quanta carne si consuma in un giorno, quanto vino si beve in un anno, in un paese, quante femmine disgraziate, diciamo così, vi esistano e quanti ammoniti siano i loro amanti di cuore, quanti mendichi non possono entrare nelle opere vie e quanti vagabondi dormono in strada la notte, quanti mollatenenti e quanti commercianti vi siano, quanto rende il Lazio consumo, quanto affondiare, per quanto si impegna al monte di pietà e quanto prende il lotto. Quest'altra parte, questo ente di Napoli, se non conosce il governo, chi lo deve conoscere? E se non servono a dirvi tutto, a che sono voi tutti questi impiegati alti e bassi? A che questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto? E se voi non siete la intelligenza suprema del paese, che tutto conosce e a tutto provvede, perché siete ministro? Vi avranno fatto vedere una, due, tre strade dei quartieri bassi e non avete avuto orrore. Ma non avete visto tutto. I napoletani stessi che vi conducevano non conoscono tutti i quartieri bassi. La via dei mercanti, l'avete percorso tutto. Sarà larga 4 metri, tanto che le carrozze non vi possono passare. Ed è sinuoso, si torce come un modello. Le case altissime la immergono durante le più belle giornate in una luce scialba e morta. Nel mezzo della via il ruscello è nero, fetido, non si muove, impantanato, è fatto di riscire e di saturata urina, di acqua di maccheroni e di acqua di minestra, una miscela fedente che imputridisce. In questa strada dei mercanti, che è una delle principali del quartiere Porto, vedi tutto. Botteghe oscure, dove si agitano delle ombre, a vendere di tutto, agenzie di vendita, banchi di notte. E ogni tanto un portoncino nero, ogni tanto un angiporto frugoso, ogni tanto un friggitore da cui esce il fetore dell'olio cattivo, ogni tanto un salumaio dalla cui bottega esce un puzzo di formaggio che fermenta e di lardo fradicio. Da questa via partono tante altre viottole che portano il nome delle arti, la zabatteria, i coltellari, gli spadali, i taffettanari, i materassari e gli esempi. Solo queste viottole, questa è la sola differenza, molto più solite dei mercanti, ma ugualmente sporche e oscure, e ognuna puzza in modo diverso, di cuoio vecchio, di piombo fuso, di acido nitrico, di acido solforico. Vai estate conducono dall'alto al quartiere di Porto. Sono ripidissime, strette, masse e ciao. immensa cannone popolata tutta di tintori. In fondo a ogni bottega bruna arde un fuoco vivo sotto una rossa caldaia nera, dove gli uomini seduti agitano una miscela fumante. Sulla porta si asciugano dei cenci rossi e violetti, sulle sedici disgiunte come sempre una feccia di tinto da multicolore. Un'altra strada, le cosiddette gradelle di Santa Barbara, anche la sua originalità. Da una parte e dall'altra abitano femmine disgraziate, che ne hanno fatto un loro dominio, e per ozio di infelici disoccupati, nel giorno e per rumore contro l'uomo, buttano dalla finestra su chi passa, bucce di fichi, cocò, spazzatori, tosso di spi. E tutto resta su questi gradini, così che la gente pulita non osa passare di più. E un'altra strada, che dietro di guardare San Marcellino conduce a Porta Nuova, dove i mercati finiscono e cominciano i razzetti. Veramente non è una strada, non ci porto, una specie di canale nero che passa sotto due archi e dove pare racconta tutta l'immondizia di un villaggio africano. E a un certo punto non si può procedere oltre. Il terreno è l'ombrico e lo stomaco spazio. In sezione di Carriere ci siete stati. Sono tutte le strade che attraversano una sola pulita, la via del Duomo. Tutte le altre sono rappresentazioni della vecchia Napoli, affogate, brune, con le case puntellate che cadono per vecchiaia. Vi dicono del sole e così perché il sole non viene. E un vicolo del settimo cielo appunto per l'altitudine di una strisciolina di cielo che apparisce tra le altissime antiche case. Attorno alla piazzetta di Santi Apostoli sono due o quattro stradette, Grotta della Marra, Santa Maria Vertecelli, vicolo della Campana, dove vive una popolazione magra e pallida, appestata dalla fabbrica di tabacco che è lì, appestata dalla propria sudicenza. E tutti gli intorni di Castelcapuano, di questa grande storica di Caria, sembrano proprio il suo ambiente, vale a dire, putridume materiale e morale, su cui sorge l'estremo portato di questa società povera e necessariamente corrotta, la Caria. La sezione del mercato, ah già, quella storica dove Massanello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Sveglia. Sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne attraverso un tempo e ne è in carrozza dalla ferrovia, ma si esce subito alla marina. Al diavolo la poesia e il dramma. In sezione mercato di una strada è pulita. Pare che da anni non ci passi mai lo spazzino. Ed è forse la sporcizia di un giorno. Ivi è il lavinaio, la grande fonte, dove si lavano i cenci lurdi della vecchia e povera nave. Il lavinaio, che è il grande ruscello, dove il lumidume viene a detergersi superficialmente, tanto che per insultare volgarmente un napoletano, sul proprio napoletanesimo, gli si dice se è proprio del lavinaio. Nella sezione del mercato, che sono i sette vicoli della pesca, in uno dei quali ho letto un dispaccio, vi sono stati fino a lunga 30 casi. E il vivo del cavalcatore, e il vivo di Sant'Arcangelo Baiano. Io sono una donna e non posso dirvi che siano queste strade, perché ivi l'abiezione diventa così profonda, così miseranda, la natura umana si degrada talmente che vengono alla faccia le fiamme della vergogna. Sventare l'acqua. Credere che basterà, illusionate che basteranno 3-4 strade attraverso i quartieri popolari per salvarmi. Vedrete quanto gli studi per questa santa opera di redenzione saranno compiuti, quale verità fuggidissima risulterà. Bisogna rifare. Voi non potrete sicuramente lasciare in piedi le case che sono riservate dall'umidità, dove al pian terreno vi è il fango. All'ultimo piano si brucia nell'estate e si gela nell'inverno, dove le scale sono i centacoli di immondizie, e quei pozzi a cui si attinge acqua così penosamente farò cadere tutti i rifiuti umani e tutti gli animali morti, e che hanno tutti un po' qui una cosiddetta rinella, una corticina interna in cui le serve buttano tutto, il cui sistema di latrine, quando ci sono, resiste a qualunque disinfezione. Voi non potete lasciare in piedi le case nelle cui piccole stanze sono agglomerate mai meno di 4 persone, dove sono galline e piccioni, gatti sfiancati e cani lebbrosi, case in cui si cucina uno stambugio, si mangia nella stanza da letto e si muore nella medesima stanza, dove altri dormono e mangiano, case in cui sottoscala, pure abitate da gente umana, assomigliano agli antichi oracoli di carceri criminali della vicaria, sotto il livello del suolo. Voi non potete sicuramente lasciare in piedi i cavalcavieri che congiungono le case, né quelle ignobili costruzioni di legno che si sospendono a certe muraglie di case, né quei portoncini angusti, né i vicoli ciechi, né quegli anciporti, né quei supportici, voi non potrete lasciare in piedi i fondaci. Voi non potrete lasciare in piedi certe case dove al primo piano è un'agenzia di pegni, al secondo si affittano camere a studenti, al terzo si fanno per i fuochi artificiali. Certe altre dove al pian terreno è un biliardo, al primo piano è un albergo dove si pagano 3 soldi per notte, al secondo una raccolta di poverette, al terzo un posto di ceci. Per distruggere la corruzione materiale e quella morale, per rifare la salute e la coscienza di quella povera gente, per insegnare loro come si vive, essi sanno pulire come avete visto, per dir loro che essi sono fratelli nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli, non basta sventrare male, bisogna quasi tutto rifarlo. Quello che guadagno. Eppure, la gente che abita in questi 4 quartieri popolari, senza aria, senza luce, senza igiene, e i passanti e i ruscelli neri, scavalcando mondi di immondizie, respirando miasmi e bevendo acqua corrotta, non è una gente bestiale, selvaggia, oziosa. Non è tefra nella fede, non è cupa nel vizio, non è colerica nella sventura. Questo popolo, per sua naturale gentilezza, ama le case bianche e le colline. Onde, il giorno di ogni santo, quando da Napoli tutta la gente pura porta loro i morti sul colle di Poggio Reale, in quel cimitero pieno di fiori, di uccelli, di profumi, di marmi, vi è chi l'ha intesa gentilmente esclamare: «Oh Gesù, muoviamo qui per star capo». Questo popolo ha un colore allegro, esso che adorna di nappe e alpini cavalli di carro, che si adorna di pennacchiati multicolori nei giorni di festa, che porta fazzoletti scarlatti al collo, che mette un pomodoro sotto un sacco di farina per ottenere un effetto pittorico, e che ha creato un movimento di ottoni scintillanti, di legni dipinti, di limoni fragranti, di bicchieri, di bottiglie, un monumentino che è una festa degli occhi, il banco dell'acquario. Questo popolo che ha la musica e la fa, che canta così amorosamente e goricamente, tanto che le sue canzoni danno uno struggimento al cuore e sono le più invincibili nostalgie per colui che è lontano. Ha una sentimentalità espansiva che si diffonde nella teoria musicale. Non è dunque una razza di animali che si compiace del suo fango, non è dunque una razza inferiore che prescinde l'orrido fra il brutto e cerca volenterosi e sudiciume. Non si merita la sorte che le cose gli impongono. Saprete apprezzare la civiltà, visto che quella pochina la gita lì se la subito assimilata, meriterebbe di essere felice. Abita laggiù, per forza. È la miseria sua, costituzionale, organica, così intensa, così profonda, che 100 opere vie non arriva a debellare, che la carità privata, fluidissima, non arriva a vincere, non la miseria dell'ozioso a fare bene, ma la miseria di colui che fatica 14 ore al giorno. Questo lavoratore, questo operaio, non può pagare l'affitto di casa che superi i 15.000 al mese. E deve essere un operaio fortunato. E è chi ne paga 10, chi ne paga 7, chi ne paga 5. Questi ultimi formano la gran massa del popolo. Anni fa, una compagnia cooperativa edificò verso Capo di Monte un falastelle di case operaie, chiare, pulite, strettine, ma infine igieniche. Per quanto mi stringessi i pezzi, non potete dare i suoi appartamenti a meno di 34 lire al mese. Nessun operaio, perdono. E andarono degli impiegati con le famiglie, qualche pensionato, gli sposetti pochi, insomma, una mezza borghesia che vuole nascondere la sua miseria e avere la scaletta di mano. Quel grandissimo edificio resta lì a far prova della miseria napoletana. Anzi, gli scrupolosi borghesi che vi abitano puntino il loro presuntuoso amor proprio da coloro che li accusarono di abitare le case operaie, hanno fatto dipingere a grandi caratteri questa scritta sull'ingresso maggiore. Le case della cooperativa non sono case operaie. Iscrizione con il superba. 34 lire. Queste 34 lire un lavoratore napoletano le guadagna un mese. Chi porta una lira di giornata a casa si stima felice. Le mercedi sono scarsissime. In quasi tutte le professioni, in tutti i mestieri. Napoli è il paese dove meno costa l'opera tipografica. Tutti lo sanno, gli operai tipografi sono pagati un terzo meno degli altri paesi. Quelli che guadagnano 5 lire a Milano, 4 a Roma, ne guadagnano 2 a Napoli. Tanto che in questo benedetto e felice paese, dove più facilmente nascono e vivono certi giornaletti poverissimi, che altrove non potrebbero pubblicare le pure tre numeri. I sarti, i calzolani, i muratori, i falegnami sono pagati nella medesima misura. Una lira, 25 soldi al più. 30 soldi al giorno per 12 ore di lavoro, talvolta penosissimo. I tagliatori di guanti guadagnano 90 centesimi al giorno. E notate che la gioventù elegante di Napoli è la meglio vestita d'Italia. Che a Napoli si fanno le più belle scarpe e i più bei mobili economici. Notate che Napoli produce i migliori guanti. Altri mestieri interiori stabiliscono la mercede a 75 centesimi, a 12 soldi, a 10 soldi. Per questo essi non possono pagare più di 5, 7, 10 lire al mese di giorno. E come la miseria incombe, la donna, la moglie, la madre, tutte quelle che hanno già molto partorito, che hanno allattato, tutte quelle che dovrebbero lavorare in casa, cercano lavoro fuori. Fortunate quelle che trovano un posto alla fabbrica del tabacco, che sanno lavorare e arrivano ad allogarsi come sarte, come modiste, come fiorai. La mercede miserissima, 15 lire, 17, 20 lire al mese, pure sembra loro fortuna, ma sono poco. Tutto il resto dell'immensa massa povera femminile si dà alla domesticità. La setta napoletana si alloca per 10 lire al mese, senza pranzo. Alla mattina fa 2-3 miglia di cammino, dalla casa sua alla casa dei suoi padroni. Scende le scale 40 volte al giorno, cava dal pozzo profondo 20 secchi d'acqua, compie le fatiche più estenuanti, non mangia per tutta la giornata. E alla sera si trascina a casa sua con un'ombra affratta. Ve ne sono di quelli che impiegano due mezzi servizi, a 6 di uno, e corrono continuamente da una casa all'altra, continuamente rimproverate per le tardanze. Ne ho conosciuto una, io, si chiamava Marella, faceva 3 case al giorno, a 5 lire. Alla sera era ripetita, non mangiava, morta dalla fatica, talvolta non si svestiva per addormentarsi subito. Queste serve trovano anche il tempo di dare l'altro al bimbo, di fare la calza, ma sono essere mostruosi, la pietà è uguale alla ripugnanza che ispirano. hanno 30 anni e ne dimostrano 50. Sono curve, hanno perso i capelli, hanno i denti gialli e neri, camminano come sciancate, portano un vestito 4 anni, un vestito 6 mesi. Non si lamentano, non piangono. Vanno a morire prima di 40 anni in ospedale, di religiosa, di polmonite, di malcorrente malattia. Quante ne ha portate via il collega? E tutti gli altri mestieri ambulanti femminili, la rondana, pettinatrici, stiratrici aggiornate, venditrici di spassatempo, rimpagliatrici di seggiole, paia di seggiole, mestieri che rispondono a tutte le intemperie, a tutti gli accidenti, a una quantità di malattie, mestieri pesanti e nauseanti, non fanno guadagnare quei disgraziati più di 10 soldi, 15 soldi al giorno. Quando guadagnano una lira, le miserie fanno economia e si merita. Sono brutte, è vero, si trascurano, è verissimo, fanno schifo, talvolta. Ma chi tanto ama la plastica dovrebbe entrare nel segreto di quelle esistenze, che sono un poema di martirio quotidiano, di sacrifici incalcolabili, di fatiche sopportate senza mormorare. Gioventù, bellezza, vestiti. Ebbero un minuto di bellezza e di gioventù, furono amate. Sono maritate, tolto il matrimonio, dove tolto il marito e la miseria, il lavoro e le busse, il travaglio e la fame. Hanno bimbi e devono abbandonare, il più piccolo affidato alla sorellina e come tutte le altre madri, temono le carrozze, il fuoco, i cani, le cadute. Sono sempre inquiete, agitate, mentre servono. Me ne lamento una, aveva 3 figli. Un piccolino specialmente, bellissimo. Il primo aveva già 2 anni e essi gli dava ancora il latte. Non aveva altro da dargli da mangiare. Questo birbetto aspettava ogni sera, seduto sullo scalino del basso. Diceva il medico dell'assistenza pubblica. Leva di latte perché ti sia male. Ella gli dava il capo, non poteva levargli il latte. Si ammalò di tifo il bimbo. Ne morì. E non montava le patate in una cucina e si lamentava sottovoce. Figlio mio, figlio mio, chi doveva uccidere, chi doveva favorire? E che mamma cane che sono stato, figlio mio, e chi mi aspetta di chiudere la sera, bocca a porta? Il lavoro dei fanciulli. Ahimè, le madri sono molto contente quando un cocchiere si deriva, vuole prendere un mozzo, per mozzo un fanciullo di 12 anni. Dandogli solo da mangiare. Sono molto contente quando il mastro di bottega vive facendolo lavorare come un cane, dandogli solo la minestra, la sera. La pietosa madre gli dà un soldo per la colazione la mattina. Le sarte, le modiste, le fioraie, le bustaie prendono per apprendista delle fanciullette dodicenni, che sono in realtà delle piccole serre e che guadagnano 5 soldi la settimana. Ma per lo più queste creature restano a casa. Nella strada tutto il giorno. Nelle campagne il figlio è un gioco, è un soccorso, è una sorgente di agiatezza. In Napoli rappresenta ancora di più una pena materna, una sorgente di lacrime e di fame. Ascoltate un poco quando l'operaio proletario nei suoi figli, dice le creature, e lo dice con tanta dolcezza malinconica, con tanta materna pietà, con un amore così doloroso che mi fa riconoscere tutta, acutamente, la intensità della miseria.